9 in punto, la versione di Oscar. Buona giornata cari ascoltatori, il tema di cui ci occuperemo oggi è quello della scarsa attenzione, dello scarsissimo spazio che è al top, all'apice delle società quotate, non quotate, insomma nella struttura economica italiana alle donne è riservato troppo poco spazio. Sono presentissime nelle strutture di formazione, nell'università eccetera eccetera, poi più man mano che si sale il loro ruolo diminuisce. Come mai? Cosa si può fare? Parleremo di un'iniziativa lanciata proprio per evitare che questa situazione continui. Oggi ci dedichiamo a un tema sul quale già ci siamo occupati, se ricordate, qualche settimana fa, quando dedicammo una puntata all'iniziativa francese di proporre ad alcune aziende con un progetto pilota sponsorizzato dal governo un meccanismo per questionare di selezione del personale in cui non era indicato, oltre l'età e la nazionalità, anche il genere, cioè un'azione attiva di promozione della caduta di barriere di discriminazione all'entrata sul mercato del lavoro. Impostammo, se ricordate, quella trasmissione per chi l'ha sentito, soprattutto oltre che sulla questione dell'integrazione etnica e dell'immigrazione, sulla questione dell'identità di genere, perché è evidente che nel mercato del lavoro italiano, dicevamo, c'è un problema di scarsa partecipazione e quindi di ostacoli alla partecipazione per le donne. E dedicammo praticamente l'intera puntata a questo. Oggi ci occupiamo, all'interno di quella riflessione, di un segmento specifico, il segmento apicale, diciamo così, quello di vertice. Perché? Perché nell'Italia in cui viviamo, tra le tante questioni, ce n'è una molto rilevante in questo problema di ordine generale. Alla testa delle società, siano esse quotate, non quotate, quelle quotate hanno le cifre più evidenti, come evidente, le donne sono pochissime, troppo poco, sono assolutamente al di sotto non solo di uno standard statistico accettabile, visto che nell'università italiana sono il 52%, uno si aspetterebbe più o meno, no, sono un multiplo bassissimo rispetto a quello. Allora ci occuperemo di un'iniziativa che è stata lanciata in questi mesi e che proprio l'altro ieri è arrivato a una prima iniziativa pubblica. Di che cosa si tratta? Si tratta di un'iniziativa assunta dalla PWA, cioè la Professional Women's Association qua a Milano, che ha deciso di affrontare il toro per le corna. Se sono così poche, troppo poche, le donne nei consigli di amministrazione delle società quotate, dei grandi gruppi italiani, delle medie imprese italiane, allora questa associazione, che è un network, è una rete di donne delle diverse professioni e che sono senior partners di studi professionali, insomma, che hanno conquistato una posizione di rilievo, si sono messi insieme per dire: bene, ci penseremo noi, insieme a selezionatori di professione, a cacciatori di teste, di posizioni di manager per le imprese, a formulare una lista di donne che hanno tutti i requisiti, secondo le ricerche sul mercato che si fanno per selezionare manager, per diventare amministratori, per entrare nelle liste dei consigli di amministrazione delle società quotate. E hanno sparato una prima bella settantina di nomi di donne all'attenzione quindi di chi comporrà le liste degli organi apicali delle società quotate in vista delle assemblee per i prossimi rinnovi. Ecco, parleremo con i nostri ospiti di questa iniziativa, come nasce, quali tipi di reazioni avrà. Nelle scorse settimane importanti organi di informazione hanno molto approfondito questo tema, hanno parlato amministratori delegati di grandi banche come Alessandro Profumo e Passera. C'è un dibattito aperto sia in Parlamento per vedere se eventualmente forzare questa barriera anche a livello apicale con norme di legge. C'è un dibattito invece interno al mondo delle quotate, se invece riservare delle quote ma all'interno delle norme di autoregolamentazione, cioè dello statuto delle società quotate, attraverso il modello di riferimento volontario che in adesione agli statuti fanno le società quotate, il codice di autoregolamentazione. Insomma, il dibattito è molto aperto. Ecco, i nostri ospiti, inizio a presentarveli, sono innanzitutto Rosanna D'Antona, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che è appunto il presidente onorario della PWA, nonché è anima da molti anni una grande grande agenzia di relazioni istituzionali che serve a molte grandi imprese. Poi abbiamo con noi, esatto, Simona Cuomo, che è coordinatrice dell'osservatorio sul cosiddetto diversity management della SDA Bocconi, quindi si occupa specificamente nella SDA Bocconi di questo aspetto. Buongiorno Cuomo. Buongiorno. E abbiamo con noi anche Maurizio Iachino. Maurizio Iachino è in Key2People, è una cacciatrice di teste, per così dire, cioè è una appunto delle società coinvolte insieme alla PWA in questo discorso. Buongiorno Iachino. Buongiorno. Allora Rosanna D'Antona, ci spiega da dove nasce la vostra iniziativa nella Professional Women's Association? Sì, grazie, con molto piacere. Beh, lei ha fatto una bellissima sintesi di quello che è il progetto in sé. In realtà mi piacerebbe di aggiungere un paio di cose. Allora, prima di tutto siamo partiti dal presupposto, come lei ha sottolineato, che la frase ricorrente quando in tutti i dibattiti, ricerche, eccetera, si diceva: ma insomma, intanto l'Italia è un fanalino di coda rispetto all'estero in termini di posizioni apicali femminili, ma più che altro siamo andati a vedere quali erano in effetti i numeri, e noi sapevamo che c'erano la famosa offerta a fronte di una domanda, no? E quindi abbiamo detto: bene, che cosa ci resta da fare? Non ci resta da fare che fare un atto proprio di comunicazione, di far uscire dal sommerso le donne che con grandi eccellenze lavorano su tutto il territorio nazionale in aziende quotate e non quotate, che danno il loro contributo allo sviluppo dell'impresa quotidianamente, che lo danno in modo molto efficace e molto efficiente, perché di nuovo ricerche italiane e internazionali dimostrano che quando c'è una donna all'interno di un consiglio di amministrazione, ma anche alla guida di aziende di un certo tipo, queste aziende, guarda caso, hanno una percentuale di profitto superiore magari al periodo precedente dove le donne non c'erano. Quindi diciamo che questa è stata la spinta. Siamo anche un po', mi consenta, un po' stufe di essere sempre il fanalino di coda a livello di paese Italia. Le voglio dire che questo progetto ha avuto il plauso e i patrocini di ministeri molto importanti che stanno riconoscendo, le istituzioni stanno riconoscendo l'importanza di questo nostro contributo, e quindi da qui siamo partiti. Siamo partiti PWA e SDA Bocconi, e abbiamo incominciato a concepire il progetto. Il progetto, abbiamo detto, prima di tutto dobbiamo essere seri, come siamo sempre seri quando lavoriamo, ma secondo, dobbiamo avere le carte in regola per essere inattaccabili. E così abbiamo preso e abbiamo chiamato on board i più grossi ed hunter che hanno selezionato da una parte le autocandidature che sono arrivate spontaneamente. Quindi qui io direi che grazie a lei, grazie a questa opportunità, grazie ai media che ci stanno seguendo, lancerei davvero un messaggio alle persone che ci stanno sentendo: chi ritiene di avere le competenze, andando sul sito di PWA le trovate. Sono requisiti privi di genere, nel senso che un consigliere di amministrazione, per sedersi in un consiglio di amministrazione, deve avere delle caratteristiche indipendentemente da maschio o femmine, perché dico subito che siamo contro ogni forma di quote rosa, e da lì può andare a vedere. Quindi aspettiamo candidature da tutto il paese, aspettiamo candidature di donne eccellenti che possano contribuire, entrare in questo dossier che è stato presentato l'altro giorno, come è stato detto, ma che è solo all'inizio. Riteniamo che queste 70 nomi nominativi eccellenti diventino l'anno prossimo 200, sono 70 peraltro e rappresentano solo alcune categorie, perché poi gli headhunter vaglieranno altre categorie di persone da inserire nei consigli di amministrazione, e quindi aspettiamo di avere altri nominativi per allungare questa famosa lista. L'andremo poi a presentare in giro per l'Italia, e ci auguriamo che di ritornare, dicevamo l'altro giorno, nel 2015 a Milano, anno importante per questa città, con un dossier di almeno 1000 donne, avere raccolto intorno al paese altre candidature che siano in grado di dare una, di incidere nello sviluppo di questo paese che, come sappiamo, non soltanto sulle tematiche femminili, ahimè, siamo sempre un pochino dietro o quantomeno arriviamo sempre dopo gli altri. Questo è un po' in sintesi il nostro progetto. Ora io ne approfitterei per ripetere gli indirizzi dove inviare curricula. I curricula li potete inviare per questo progetto Ready for Board, li potete inviare a womenboard@pwa-milan.org e per informazioni comunque il sito è www.pwa-milan.org. A Simona Cuomo chiederei questo. In realtà Bocconi perché decise quando di fare questo osservatorio sulla diversità di genere nel management in SDA Bocconi? Ecco. Allora, noi come osservatorio nasciamo in realtà sui temi, no, della diversità 10 anni fa, quindi abbiamo iniziato a occuparci di genere studiando il perché, le cause, no? Partecipano meno al mercato del lavoro, anche se oggi i dati stanno cambiando, e poi il sentiero, no, che le guida nello sviluppo di carriera è stato definito proprio un sentiero di cristallo, quindi non si parla più solo di soffitto di cristallo, quindi come barriera che tiene le donne lontano dai luoghi di potere, ma anche proprio labirinto di cristallo, perché il percorso è molto irto di ostacoli e difficoltà, è difficile per le donne, soprattutto per un tempo di conciliazione del doppio ruolo. Detto questo, in realtà noi in questi 10 anni abbiamo allargato gli studi su tutti i temi della diversità, studi che non sono semplicemente, come dire, accademici, ma che si avvalgono molto della relazione con le aziende a cui noi ci rivolgiamo, per cui hanno poi anche, come dire, uno spirito molto pratico, vogliono indurre l'azione. E qui veniamo al progetto Ready for Board Women, a cui io ho partecipato con Rosanna e Monica Pesce, proprio nella fase anche progettuale. Allora, Rosanna ha sottolineato molto bene la differenza di questo progetto rispetto a tante liste che sono state pubblicate ad oggi, quindi noi ci vogliamo proprio distinguere, no, rispetto a quanto è stato fatto, proprio per la serietà, la rigorosità e la meritocrazia fondamentale che noi sosteniamo attraverso un meccanismo rigoroso di selezione, qui poi Maurizio Iachino sicuramente entrerà nel merito di questo, del processo di selezione, quindi sia delle donne conosciute ma anche e soprattutto delle autocandidature, perché vogliamo che prendano visibilità e luce le donne che hanno le capacità, sulle quali noi crediamo ce ne siano tante, quindi abbiamo proprio bisogno di tirarle fuori, però rispetto al merito. Evidentemente però il tema non è un tema di merito, no? Come qualcuno sottolinea, perché se fosse semplicemente un tema di merito avremmo le board room piene di donne, ma così non è. Quindi ci sono dei meccanismi ulteriori che vanno sbloccati per promuovere un'evoluzione della struttura, no, del nostro paese, meccanismi che sono legati proprio a dei modi di pensare un po' rigidi, un po' stereotipati, proprio, si usa questa parola. Ecco, allora noi abbiamo pensato anche, no, di dare al nostro progetto un valore di lungo periodo, affiancandogli un programma di ricerca molto interessante che ha proprio lo scopo di abbattere alcuni stereotipi, e quindi non solo non vogliamo solo produrre una lista, ma aiutare l'opinione pubblica, l'opinione delle persone a, come dire, progredire, andare avanti, mettendo dei punti fermi su alcune evidenze. I punti fermi che vogliamo mettere è proprio andare a misurare la differenza, no, di competenze tra i board member attuali, quindi uomini e donne, e le competenze delle donne che attualmente sono escluse, per verificare se effettivamente è un problema di gap di competenze o eventualmente sottolineare che il problema dell'accesso ai board è legato ad altri meccanismi. Ora io approfitto per dare risposta ad alcuni di questi messaggi che come sempre mi perprimono, se le gentili ospiti per un secondo mi perdonano. Per esempio, voglio dare una risposta a Marco che mi chiede con grande leggerezza se io sia un liberista o uno stronzo, perché dice: se non ci sono donne vuol dire che non ce la fanno e i soldi non guardano maschio o femmina. No, Marco, il liberista si occupa della parità di accesso alle condizioni di mercato contro le regole asimmetriche, le informazioni asimmetriche. Questo è liberista. Allora, nel nostro mercato queste barriere e queste asimmetrie ci sono, e per questo oggi ce ne occupiamo, continueremo ad occuparcene, e Marco, fattene una ragione, non spetta a me dire se sono stronzo, di sicuro sono liberista e coerente. Poi un altro ascoltatore da Bologna: troppe donne, lei è un razzista. Ma insomma, la ringrazio di questo giudizio. Un altro ascoltatore che dice: ma sì, mandiamo le donne al lavoro e noi maschietti a casa a curare i bambini, ma per favore, Oscar, puntini puntini, insulti. Ringrazio anche lui. Dio ci liberi dalle donne manager, dice un altro messaggio. Sono molto più insensibili dell'uomo, sono più rigide e risolute nel bene e nel male, e quindi la donna più perfida è quella che va al potere. No, non ne abbiamo bisogno. Ecco, dovessi giudicare da questi primi messaggi, cari ascoltatori di Radio 24, mi farei una cattiva idea di voi in ascolto, ma immagino che siano semplicemente coloro che ovviamente hanno il dito più rapido. Fatto sta che al 99% i messaggi che ottengo anche questa mattina sono di questo tipo. Naturalmente non desisto dal tema e mi scuso con le ospiti se ho dovuto rubare il loro tempo per rispondere, ma una radio è il dialogo ininterrotto con il pubblico. Può essere che io non sia molto simpatico, però certo questi giudizi fanno capire anche perché poi il numero delle donne manager, delle donne che partecipano al mercato del lavoro, sia basso. Perché, cari ascoltatori, rassegnatevi, i maschi italiani hanno su questo un problema grande come una casa e continuano a far finta di no, ma hanno queste reazioni e le manifestano poi nella sede apicale delle società come a livello più basso del mercato del lavoro, eccetera eccetera. Cioè discriminano perché si credono ancora oggi superiori. Ecco, perdonate ospiti. Andiamo un secondo dal punto di vista invece di chi seleziona il personale in una grande società di consulenza di che si occupa di questo in Italia e all'estero. Quindi la mia domanda a Maurizio Iachino da questo punto di vista è: che cosa contraddistingue la specificità italiana nell'headhunting, cioè nel selezionare questi profili, rispetto alla risposta che viene dalla società? C'è un bias, c'è un pregiudizio maggiore che si tocca? In che cosa lo identifica lei sul mercato italiano? Buongiorno a tutti. Parlare di differenze tra Italia e estero, soprattutto in Europa, non sono più così tranquilla che siamo così lontani dall'Europa occidentale. Parlo però soprattutto della differenza nel trattare e nel individuare anche candidature femminili alle posizioni di responsabilità. Ci stiamo avvicinando perché è un percorso che abbiamo iniziato tanto tempo fa, non è iniziato da poco, ma il tema di stamattina, che riguarda soprattutto la presenza di profili femminili nei CDA, quindi negli organismi che sono gli organismi che sono sopra, che governano le imprese, sono gli organismi che devono dare un indirizzo, che devono controllare, che devono dare le linee guida perché le imprese si sviluppino, crescano e soprattutto perché tutelino l'interesse di tutti gli azionisti, piccoli e grandi. Ecco, su questo ruolo da tempo è stato denunciato che la presenza è veramente piccolissima, molto inferiore anche agli altri paesi con cui ci stiamo confrontando, ed è su questo che abbiamo iniziato con veramente grandissima convinzione il progetto, che è un progetto che finalmente dà una risposta concreta, perché io mi occupo di questo da tantissimo tempo, perché faccio le danze da tanto tempo e nelle società internazionali è da tempo che si fanno ricerche di board member, cioè di amministratori e di direttori, di director come si dice in anglosassone, ma in Italia per esempio queste ricerche non si fanno. Si fanno solamente se arrivano delle società multinazionali che vogliono comporre un board che sia rappresentativo e competente, quindi si rivolgono a degli esperti per far questo. Già questo è indicativo, perché non esiste in Italia un processo di selezione rigoroso e trasparente nel portare i membri del board a essere nominati. Sono solitamente processi guidati dagli azionisti. Naturalmente questo è naturale in Italia, perché in Italia noi abbiamo una grandissima concentrazione di società private, società con azionisti di riferimento, azionisti forti. È evidente che gli azionisti devono scegliere i loro rappresentanti, ma è evidente che devono dare la possibilità all'impresa di essere rappresentata con tutte le competenze necessarie e non quindi mettersi dei vincoli o dei limiti proprio in questa scelta. Quindi noi stiamo dando uno strumento a chi sono i decisori. I decisori sono le assemblee sono fatte dagli azionisti, a quelli che devono decidere come a un certo punto adeguare anche questo organismo di indirizzo, che è importantissimo, anche se fino adesso un pochettino trascurato, devo dire, almeno nell'attenzione da parte degli azionisti, devono arrivare attraverso anche questo strumento a considerare tutte le opportunità esistenti per creare un board forte. Forte vuol dire che sia capace di lavorare negli interessi dell'impresa. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando di questa iniziativa presentata 2 giorni fa per proporre a chi formerà le liste per il Consiglio di Amministrazione delle Società Quotate Italiane 70 curriculum ben strutturati secondo tutti i criteri della ricerca del personale apicale per proporre professionalità di alto livello femminile di donne per il Consiglio di Amministrazione della Società Italiana. Ricordo il numero: su 2.831 posti nei consigli di amministrazione delle società quotate oggi sulla borsa italiana, solo 167 su 2.831 sono occupati da donna. Aggiorno la situazione degli SMS, ma c'è qualche segno di riequilibrio, qualcuno che solidarizza con me, qualcun altro che intigna dicendo che il liberista non deve guardare al sesso. Certo che non deve guardare al sesso, infatti nessuno sta pensando di far passare con minori titoli una donna in un consiglio di amministrazione rispetto a un componente maschile, ma ripeto, il liberista si occupa delle condizioni a parità di accesso del mercato. Io non sono favorevole per esempio a una norma di legge che stabilisca le quote, quella la considererei sbagliata. Sono favorevole ad azioni di promozione per abbattere le barriere all'ingresso, perché la parità di condizioni poi giudicano i risultati e quello che sa fare ciascuno, che non dipende dal sesso, ma la parità di condizioni iniziale per partecipare a un gioco è ciò che l'individualista liberista ha in testa. Chiunque dica il contrario, forse è il caso che sfogli qualche libro. Bene, cominciamo da qualche telefonata per le nostre ospiti. Elisabetta da Roma, prego Elisabetta. Buongiorno Giannina, lei adesso è ospiti. Io volevo suggerire alla Presidente, sua ospite, la D'Antona, di estendere questa sua iniziativa alle aziende dello Stato italiano, perché lo Stato italiano ha ancora delle SPA, non so, le ferrovie per esempio, le poste, il poligrafico, la Consip, e quindi avrei detto anche l'Alitalia se non l'avessimo privatizzata, ma le donne le vorrei vedere in questi consigli di amministrazione anche a guidare il processo di privatizzazione della partecipazione, se questa è la linea di governo, aziende che appartengono allo Stato. E quindi l'iniziativa va rivolta al Ministro dell'Economia Tremonti, al Ministro dell'Industria e dello Sviluppo, come si chiama adesso, Scajola. Perché io le donne non lo... sì, ma io le donne non le ho mai viste, almeno. Perché una battuta, insomma, vale per tutti, e l'iniziativa è lì che io trovo molto più pregnante per l'assetto e lo sviluppo del paese. Una donna che guida le ferrovie dello Stato la vedrei ben volentieri. Gaber diceva, beh, voglio vedere la differenza che fa. Insomma, è una battuta, ma io la voglio sperimentare come cittadino, al di là della questione di genere. E poi una risposta all'Aichino che mi è piaciuta molto, dice, se noi mettessimo un criterio di selezione, io glielo dico come battuta, 50% dei consigli di amministrazione bisognerà rifarli. Perché effettivamente non è così. E posso dire, Elisabetta, che io in taluni casi non so se il 50% è la media al mio giudizio, io penso che sarei anche un pochino più elevato come percentuale. Grazie Elisabetta, giriamo adesso la domanda ad Antonio, intanto anche Barbara da Milano, prego. Sì, buongiorno. Allora, io ho una premessa, non siete nel consiglio di amministrazione, però sono donna, sono dirigente d'azienda privata, sono moglie e sono mamma. E io volevo rispondere a tutti quegli SMS che sono arrivati da parte di una serie di uomini che parlano del fatto che se noi donne lavoriamo loro cosa possono fare, stare a casa a guardare i bambini, eccetera. Beh, cari signori, io sono contrarissima alle quote rose, però io sono favorevolissima e credo nel merito. E quindi forse hanno paura di competere, forse delle donne brave fanno loro paura, perché non esiste altro argomento. Tra l'altro devo dire, io ho diverse colleghe tedesche, per esempio, molto in gamba, che hanno il marito che sta a casa a guardare i figli, e questo non è considerato assolutamente una cosa negativa o che sminuisce il ruolo dell'uomo. quindi oltretutto questo introduce l'altra cosa che volevo dire, e che secondo me è il gatto che sfugge la coda, perché in Italia c'è un grossissimo problema culturale, perché noi donne siamo per definizione in grado di gestire tante cose, no? La riunione di lavoro importante è il pediatra del bimbo che non sta bene, noi ce l'abbiamo nel DNA, e questo ci rende molto flessibili su tante cose. Però è innegabile dall'altro punto di vista che se hai un marito che non accetta di mettere a tavola i figli quando tu sei in trasferta e non rientri la sera, beh, io mi rendo conto che per queste donne è praticamente impossibile pensare di avere una carriera e di avere una vita diversa. Grazie Barbara, non darò più seguito ad altri messaggi perché naturalmente adesso si scatena il delirio, cioè chi parte in quarta senza qualificare, senza fare i nomi, punto, abbiamo dedicato già troppo spazio a queste che definisco sciocchezza, perché poi se volete insultarmi insultatemi, però parliamo seriamente dei temi di cui abbiamo oggi all'ordine del giorno nella trasmissione. C'era una domanda ad Antonio da parte della nostra prima ascoltatrice sul settore pubblico, ricapitolo alcuni dati della presenza delle donne, per esempio nelle authority, cioè nelle autorità di regolazione di pezzi fondamentali della nostra economia. Allora, per esempio, autorità che vigila sullo sciopero, garanzia sciopero, totale dei componenti 9, di cui donne 2. Oh, bene. ISVAP, quella che vigila sulle assicurazioni, 7 componenti, di cui donne 0. L'autorità sull'energia, 2 componenti attuali, in teoria è 4 il collegio, componenti donne 0. L'autority sulla privacy, quella del professor Pizzetti, componenti 4, donne 0. Covip, quella sui fondi pensioni, componenti 5, donne 0. L'autorità sui contratti pubblici, componenti 7, donne 0. La GCOM, quella sulle comunicacioni, molto importante, quella presieduta da Calabrò, componenti del board 9, donne 0. Consob, quella che vigila sulle società e i mercati e le società e la borsa, 5 componenti, donne 0. Ecco, questa è la situazione di cui stiamo parlando. D'Antona, lei che dice, nel settore pubblico come andiamo? Sì. Allora, io ringrazio molto Elisabetta in realtà di questa domanda che ci ha fatto, perché vorrei darle due indicazioni. La prima è che, come ho accennato brevemente nell'introduzione, beh, innanzitutto devo fare una precisazione. Io sono membro onorario di PWA, Monica Pesce è la responsabile per l'Italia, che non ha potuto essere con noi questa mattina, quindi stiamo tutte parlando anche e per nome di Monica. Detto questo, il progetto ha potuto prendere in considerazione queste 70 donne solo da alcuni settori che compongono la nostra economia. Infatti l'aveva detto lei. Esatto, in realtà sottolineo che sta per uscire, e qui penso che uscirà nel primo semestre dell'anno prossimo, un altro dossier che prenderà in considerazione le categorie mancanti, in particolare e in primis la pubblica amministrazione. Quindi questo, se scaricando da PWA trovate anche il dossier con il percorso, il progetto, che cosa abbiamo analizzato e che cosa andremo ad analizzare. Ma l'altra cosa molto interessante è questa, che questo progetto è andato a finire sui tavoli esattamente del Presidente del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta, ci ha dato subito la sua adesione e il suo patrocinio. Ovviamente per ovvi motivi e per ovvie affinità alle pari opportunità, quindi abbiamo il consenso e il patrocinio della Ministra Carfagna. Abbiamo il consenso e il patrocinio di Tremonti, quindi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e last but not least, come dicono gli inglesi, abbiamo anche quello di Brunetta. Allora, che cosa dobbiamo leggere da questa partecipazione, devo dire, così numerosa? E non abbiamo quello di Scajola per un motivo, che non è ancora arrivato in tempo, perché i processi per arrivare a questo, la domanda è in corso e siamo certi che otterremo anche il suo. Allora, che cosa significa? Che cosa dobbiamo leggere di questo segnale? Dobbiamo leggere che, e mi dispiace per le persone che hanno mandato i loro sms, ma l'Italia purtroppo vive ancora di stereotipi, di preconcetti, però per fortuna abbiamo delle istituzioni che non sono così, direi, orbe rispetto al fatto che pezzi d'Italia, pezzi di economia importante, come sono state recentemente le dichiarazioni di Profumo, di Passera, che hanno dichiarato entro il 2018 il corpo dirigenti delle nostre banche avranno X% di donne in più rispetto all'attuale, francamente non mi ricordo il dato, ma si sono esposti dichiarandolo, quindi vuol dire che c'è finalmente un dirigente, un uomo italiano che si sta rendendo conto che se non utilizza la risorsa di alta qualità, i talenti femminili per far parte dello sviluppo del paese, è come se davvero ci dimenticassimo un pezzo della nostra economia e un pezzo un pezzo di ruota per far andare avanti una macchina ad una velocità un po'. E qui direi lontani per piacere da tutte quelle che sono le icone a cui siamo state soggette, le donne con le tailleur spietate, simili all'uomo, eccetera, eccetera. Mi darà atto, mi darà atto. L'altro giorno lì per vedere la qualità delle donne che ci sono. Eccoci in studio per quest'ultima parte dedicata oggi a questa iniziativa per sottoporre l'attenzione di chi deve formare i consigli di amministrazione in vista dell'assemblea delle società quotate, di questa iniziativa di mettere giù 70 nomi iniziali, ma diventeranno molti di più di donne che hanno tutti i titoli per poter essere selezionata per questi incarichi apicali di amministratore. Chiedo a Marina Brogi, che insegna economia e tecnica dei mercati finanziari alla Sapienza di Roma. Ecco, da questo punto di vista, secondo lei, qual è il margine più corretto, più utile, pensando a come funziona il mercato italiano, per un intervento? C'è chi pensa, l'abbiamo detto all'inizio, ai codici di autoregolamentazione delle società, c'è chi addirittura pensa a una legge. Nella sua esperienza, concretamente, meglio parlarne solo o qualche azione proattiva, dove incardinarla? Beh, intanto buongiorno a tutti, ma guardi, io mi sono assolutamente persuasa che serve una legge, nel senso che io ho parlato a lungo con quelli che sono un po' i guru della materia del gender anche all'estero, in Norvegia, dove noi sappiamo che i paesi scandinavi sono all'avanguardia per quanto riguarda la concorrenzialità in tutti gli ambiti, ebbene loro hanno sentito la necessità di una legge, perché prima di allora si parlava molto ma si concludeva poco. La prova del 9, perché poi io non mi fido mai fino in fondo se non vedo i risultati, che sia stata la scelta giusta, si riscontra nel fatto che non solo nelle società quotate, dove la legge imponeva un 40% di donne, ma anche nelle altre società c'è stato un incremento molto forte, per cui una volta buttato il cuore oltre l'ostacolo ci si è resi conto che effettivamente le donne sono importanti nei board, perché i board così sono più rappresentativi della società, è una questione poi di talenti, per cui di non perderci per strada delle competenze, e da ultimo anche nel business, in molti settori, pensiamo ai servizi dove è importante la capacità relazionale, dove è noto, scientificamente provato, che le donne hanno particolari skill relazionali, perché hanno un tipo di intelligenza più adatta, più capacità di ascolto, e poi altri business dove sono le donne a scegliere poi cosa comprare, le donne sono molto importanti. Purtroppo prima della legge anche in Norvegia si parlava tanto e si faceva poco, dopo la legge c'è stato un maggior impulso e c'è stata quella forza per cambiare che prima mancava, siccome io credo molto ai risultati e lì i risultati ci sono stati, mi sono convinta che una legge sia molto utile. Qui abbiamo, secondo me, la fortuna che già a maggio dell'anno scorso Lella Golfo ha presentato un disegno di legge, peraltro Rosanna D'Antona, che parlava prima, lo sa bene, il dottor Letta, quando è andato a mandare una bellissima lettera che ha mandato per l'iniziativa di cui si parlava prima, ha proprio fatto riferimento al fatto che c'è una forte attenzione a questi temi da parte del governo, al punto che c'è un disegno di legge che sta procedendo anche alla Commissione Finanze della Camera, che secondo me è una cosa molto importante per le donne di questo paese. Se mi consentite un'ultima battuta, io sono persuasa di una frase che è attribuita a Seneca, cioè la fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'occasione. Lei sa che, professoressa, lei sa che viviamo in un paese invece profondamente intriso della convenzione machiavellica, per cui la fortuna è l'altro aspetto della virtù, eccetera eccetera, insomma. Ma io credo che bisogna dare l'occasione alle donne, e ahimè, per cambiare gli stereotipi di cui anche la collega della Bocconi parlava, di gender in Bocconi si parla da 10 anni, lei ha fatto la desolante casistica delle sulle società quotate, donne nei CDA ce ne sono pochissime, nonostante di gender si parlasse molto. Era la stessa cosa in Norvegia, hanno fatto la legge e le cose sono cambiate, nelle quotate e anche nelle altre società. Pensi che un ascoltatore molto insistente pretende di avere ragione per dire: siccome non si conosce il nome di una sola donna fondatrice d'impresa, questa significa che non devono fare le manager. Ecco, io mi permetto di sorridere su questi argomenti, però devo dirvi che questi sono gli argomenti che si sentono risuonare. Anna Gervasone, che è direttore generale dell'AIFI, che cos'è l'AIFI? È l'Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital, per chi non lo conoscesse, quindi le forze che noi sostenitori del mercato vorremmo che fossero più presenti, maggiormente presenti in forza per sostenere i primi passi e poi lo sviluppo delle imprese, non solo in un sistema bancocentrico, anche se naturalmente poi anche i fondi private e venture capital poi sono di alimentazione bancaria e nel nostro paese sono spessissimo anche di alimentazione bancaria. Comunque, questo per ricordare cosa fa Anna Gervasoni. Ecco, nella sua esperienza, innanzitutto, è vero o non è vero davvero che le manager donne, poi come abbiamo detto all'inizio, sono in grado di creare più valore? Perché secondo lei, e in ogni caso anche nel suo caso, qual è la sua opinione sulle azioni proattive, dove è meglio incardinarle, se nei codici di autoregolamentazione, negli statuti, nelle leggi? Tanto buongiorno a tutti. Dunque, sono domande difficilissime, soprattutto la prima, ma io credo che il contributo delle donne capaci sia un contributo importante così come quello degli uomini capaci, ecco, quindi credo che oggi ci siano e sia dimostrato che ci sono delle donne capaci che c'erano anche un tempo, perché non è che siamo diventate più brave, più intelligenti adesso. La differenza rispetto a qualche anno fa è che c'è forse più grinta, più voglia di fare, c'è una cultura di fatto cambiata, quindi oggi la donna non si accontenta più di avere un lavoretto part time, anche se magari ha una laurea importante, ha delle competenze importanti, però vuole mettersi in discussione esattamente come i colleghi maschi. Mi ricollego a una telefonata che ho sentito prima di Barbara, se non ricordo male il nome, cioè questa cosa dei figli, smettiamola, insomma, è compatibilissimo così come per una donna, per un uomo, lavorare e occuparsi dei figli. Poi che il sistema sociale italiano non sia attento in generale alla famiglia, questo è argomento di un'altra trasmissione probabilmente, però insomma si può fare, costa un po' di fatica, ma toglierei questo messaggio negativissimo per le più giovani che o ci sono i figli o ci sono la carriera, perché appunto l'altra sera in Asso Lombarda eravamo piene di persone che lavorano con impegno full time e hanno anche dei figli che sono cresciuti nonostante questo, ecco, quindi questo secondo me è un argomento che va superato. Le donne sicuramente possono dare un contributo professionale, un contributo che grazie anche secondo me, questo sì, alla nostra forse capacità di saper organizzare tante cose nello stesso momento, perché effettivamente per disperazione ti trovi tutte le mattine a organizzare la casa, il lavoro, la famiglia, l'università eccetera, allora forse possiamo dare un contributo anche un po' innovativo a queste aziende che spero chiameranno sempre più donne ai posti di vertice, indipendentemente dal fatto che parliamo di consigli, di collegi sindacali, di management team. Venendo al secondo tema, quello delle leggi, della normativa, ma io sono liberista, quindi a me le leggi danno sempre un po' fastidio, ecco. Poi quando devo dire sia l'iniziativa della Golfo che l'iniziativa al Senato della Germontani sono state presentate, che sono due testi di legge, una alla Camera, una appunto al Senato, che sostengono questa necessità di normativa per costringere ad avere delle donne nel Consiglio, rispetto alle quali, ripeto, io inizialmente ero assolutamente contraria, però mi hanno fatto ragionare e in particolare la senatrice Germontani mi ha fatto notare, come diceva anche Marina Brogi prima, che se non si dà una spallata probabilmente niente. Io devo dire che anch'io da liberista sono contro le leggi, ma credo alle azioni proattive quando ci sono squilibri così forti, quindi mi ritrovo nelle conclusioni finali di Anna Gervasoni e di Marina Brogi, che ringrazio insieme a Rosanna D'Antono, a Simona Cuomo e a Maurizia Iacchino. Abbiamo fatto una puntata tutta al femminile, finalmente, lasciatemelo dire, cari ascoltatori un po' troppo maschilisti di Radio 24. Grazie in regia a Paolo Corleoni, grazie Alessandro Marco Tulli, la linea giornale radio, l'appuntamento con noi è lunedì prossimo. Radio 24, la passione si sente.